Europa 24. In apertura di questa edizione di Europa 24 torniamo sul voto scozzese, un voto a favore di un'Europa unita, aperta e più forte, dice il presidente della Commissione europea José Manuel Barroso. Il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz si dice invece sollevato in un'intervista alla radio tedesca Deutschlandfunk. Sono molto contento del risultato, è stato un processo democratico riconosciuto da Londra, un risultato che, ammetto, mi ha sollevato. L'Unione europea non aveva ancora pronto un piano B in caso di vittoria del sì. L'Unione Europea ha già il problema di dover tenere uniti tutti i suoi membri e questo è già molto difficile. Le questioni interne, i regionalismi, le richieste di autonomia sono problemi seri che però non possono trovare a Bruxelles una soluzione. Tuttavia dobbiamo lavorare per un accordo sulle nuove adesioni all'Unione. La Scozia dovrebbe, sotto l'ombrello del Regno Unito, arrivare a essere un modello di autodeterminazione e autonomia ragionevoli per quelle altre regioni in Europa dove il tema dell'indipendenza è molto sentito. Niente indipendenza per la Scozia dunque, staremo a vedere se il voto scozzese influenzerà in qualche modo le spinte secessionistiche in altre zone d'Europa. L'Europa, quella istituzionale, tira un sospiro di sollievo, almeno per il momento. Il no all'indipendenza scozzese disinnesca una mina in grado di aprire il vaso di Pandora dei regionalismi, ponendo il vecchio continente di fronte a una potenziale crisi istituzionale. La parola Scozia è stata per settimane tabù a Bruxelles. Il presidente della Commissione Barroso si è limitato a indicare che Edimburgo sarebbe dovuta passare sotto le forche caudine dei negoziati di adesione per tornare a far parte della grande famiglia europea. Un rompicapo in meno per la presidenza italiana dell'Unione, già fin troppo indaffarata a sbrogliare dossier economici e a uscire dalle secche dell'austerità. E un sospiro di sollievo per quei paesi come la Spagna alle prese con i propri indipendentismi regionali. Il prossimo banco di prova sarà proprio la penisola iberica. La Catalunya ha annunciato un referendum sull'indipendenza da Madrid il 9 novembre. Oggi il governo regionale di Barcellona dovrebbe varare la legge referendaria. Il premier spagnolo Rajoy ha già preparato un consiglio dei ministri straordinario per far approvare un ricorso che porti all'annullamento di questa norma da parte del Tribunale Costituzionale, aprendo così lo scontro. Per intanto la questione scozzese torna ad essere un dossier puramente britannico. I leader dei tre principali schieramenti politici hanno promesso ulteriori devoluzioni di poteri, anche in materia fiscale, a Edimburgo e gli scozzesi, dopo aver prolungato il matrimonio con Londra, presenteranno ora il conto. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si terrà il prossimo 8 ottobre a Milano la conferenza dei capi di Stato e di Governo sul lavoro, decisa nelle conclusioni del Consiglio europeo straordinario dello scorso 30 agosto. Nei giorni scorsi c'era stata un po' di confusione, si era parlato prima di un rinvio, poi invece ieri la conferma. Parteciperà anche il presidente della Commissione europea Barroso. L'annuncio è arrivato con un tweet della portavoce. Il commissario europeo uscente all'ambiente, Janez Potocnik, ha fatto sapere ieri sera da Bruxelles che è assolutamente importante risolvere i problemi aperti allo stabilimento Ilva di Taranto, che continua a non rispettare le norme ambientali dell'Unione Europea. La commissione uscente, su iniziativa proprio di Potocnik, dovrebbe decidere entro la fine del suo mandato l'invio di un parere motivato all'Italia, accusandola di non aver imposto all'Ilva gli obblighi ambientali previsti dalle condizioni e dall'autorizzazione dell'impianto. Bruxelles prepara una procedura di infrazione per le etichette cosiddette a semaforo adottate dai supermercati britannici. Un provvedimento per contrastare l'obesità che si trasforma nella penalizzazione di molti prodotti, soprattutto del Made in Italy. Il Dipartimento della Salute inglese un anno fa aveva suggerito alla grande distribuzione di marchiare con un bollino rosso, giallo o verde i prodotti a seconda del contenuto di sale, zuccheri e grassi. Una valutazione che però finisce per sconsigliare il parmigiano e favorire le bibite gassate. Se Londra sostiene che l'etichetta è volontaria e si limita a fornire suggerimenti per un buon regime alimentare, Bruxelles ha giudicato la mossa discriminante perché scoraggerebbe certi acquisti, distorcendo il funzionamento del mercato interno. Per questo la Commissione europea sta iniziando una procedura contro il governo di Londra, un'operazione fortemente voluta dalla diplomazia italiana, che aveva previsto perdite per oltre 600 milioni di euro a causa dell'etichetta semaforo. La decisione definitiva verrà presa il prossimo 29 settembre. Stando alle prime discussioni, è probabile che Londra venga messa in mora. Adesso essere contrari, infatti, sono solo 3 commissari: la britannica Ashton, l'ungherese Andor, responsabile per il lavoro, e il finlandese Katainen. Miriam Corgia, Radio 24, Sole 24 Ore. Domani, 31esima edizione delle Giornate Europee del Patrimonio. La manifestazione, ideata nel 91 dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea, coinvolge gli Stati membri della Convenzione Culturale Europea ed è nata con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini del nostro continente alla ricchezza e alla diversità culturale. In Italia, principali musei, monumenti e aree archeologiche saranno aperti al pubblico fino alle 24, al costo simbolico di un euro. È tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.